Terzo canto del Purgatorio dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, terzo canto. Avvegna che la subitana fuga dispergesse color per la campagna, rivolti al monte ove ragionne fruga. I mi ristrinsi alla fida compagna. E come sarei io senza lui corso? Chi m'avria tratto su per la montagna? El mi parea da sé stesso rimorso. O dignitosa coscienza e netta, come te picciol fallo amaro morso. Quando li piedi suoi lasciar la fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga, la mente mia, che prima era ristretta, l'ontento rallargò sì come vaga, e diedi il viso mio incontra al poggio, che inverso il ciel più alto si dislaga. Lo sol, che dietro fiammeggiava roggio, rotto m'era dinanzi alla figura, ch'avea in me dei suoi raggi l'appoggio. Io mi volsi dal lato con paura d'essere abbandonato, quand'io vidi solo dinanzi a me la terra oscura. E il mio conforto, perché pur diffidi? A dirmi cominciò tutto rivolto, non credi tu me teco e ch'io ti guidi? Vespero è già colà dove è sepolto lo corpo dentro al quale io facea ombra, Napoli là, e da brandizio è tolto. Ora, se innanzi a me nulla s'aombra, non ti maravigliar più che di cieli, che l'uno e l'altro raggio non ingombra. A sofferir tormenti caldi e geli, simili corpi la virtù dispone, che, come fa, non vuol ch'a noi si sveli. Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrer la infinita via, che tiene una sostanza in tre persone. State contenti, umana gente, alquia, che, se potuto aveste veder tutto, mestier non era parturir Maria, e disiar vedeste senza frutto, tai che sarebbe lor disio quetato, che eternalmente è dato lor per lutto. Io dico d'Aristotile e di Plato e di molt'altri. E qui chinò la fronte e più non disse e rimase turbato. Noi divenimmo intanto a piè del monte. Qui vi trovammo la roccia sì erta che indarno vi sarien le gambe pronte. Tra le ricce e turbia la più diserta, la più rotta, ruina è una scala verso di quella agevole e aperta. Or chi sa da qual man la costa cala, disse il maestro mio fermando il passo, sì che possa salir chi va senz'ala. E mentre ch'ei tenendo il viso basso esaminava del cammin la mente, e io mirava suso intorno al sasso, da man sinistra m'apparì una gente d'anime che movieno i piè ver noi, e non pareva, sì venian lente. Leva, diss'io, maestro, gli occhi tuoi, ecco di qua chi ne darà consiglio, se tu da te medesmo aver nol puoi. Guardò allora, e con libero piglio rispuose, andiamo in là, ch'ei vegnon piano, e tu ferma la spene, dolce figlio. Ancora era quel popol di lontano, i dico, dopo i nostri 1000 passi, quanto un buon gitator trarria con mano. Quando si strinser tutti ai duri massi dell'alta ripa, e stetter fermi e stretti, come a guardar, chi va dubbiando stassi. O ben finiti, o già spiriti eletti, Virgilio incominciò, per quella pace, ch'i credo che per voi tutti s'aspetti, ditene dove la montagna giace, sì che possibil sia l'andare in suso, che perder tempo a chi più sa più spiace. Come le pecorelle escon del chiuso a una, a due, a tre, e l'altre stanno, timidette, atterrando l'occhio e il muso, e ciò che fa la prima e l'altre fanno, addossandosi a lei, s'ella s'arresta, semplici e quete, e lo imperché non sanno, sì vid'io muovere a venir la testa di quella mandra fortunata allotta, pudica in faccia e nell'andare onesta. Come color dinanzi vider rotta la luce in terra dal mio destro canto, sì che l'ombra era da me alla grotta, restaro e trasser sé indietro alquanto, e tutti gli altri che venieno appresso, non sappiendo il perché, fenno altrettanto. Sanza vostra domanda io vi confesso che questo è corpo uman che voi vedete, perché il lume del sole in terra è fesso. Non vi maravigliate, ma credete che non sanza virtù che da ciel vegna cerchi di soverchiar questa parete. Così il maestro, e quella gente degna, tornate, disse, entrate innanzi dunque, coi dossi delle man facendo insegna. E l'un di loro incominciò, chiunque tu sè, così andando, volgi il viso, pon mente se di là mi vedesti unque. Io mi volsi ver lui e guardai il fiso. Biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l'un de cigli un colpo avea diviso. Quand'io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, el disse, or vedi, e mostrommi una piaga a sommo il petto. Poi sorridendo disse, io son Manfredi, nepote di Costanza imperatrice, ond'io ti prego che quando tu riedi vadi a mia bella figlia, genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona, e dichi il vero a lei, s'altro si dice. Poscia ch'io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei, piangendo, a quei che volentier perdona. Orribil furon li peccati miei, ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per clemente allora, avesse in Dio ben letta questa faccia, l'ossa del corpo mio sarieno ancora in co del ponte presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e muove il vento di fuor dal regno, quasi lungo il verde, dov'ei le trasmutò a lume spento. Per lor maledizion sì non si perde, che non possa tornar l'eterno amore, mentre che la speranza a fior del verde. Vero è che quale in contumacia more di santa chiesa, ancor ch'al fin si penta, starli convien da questa ripa in fore. Per ognun tempo ch'egli è stato, 30 in sua presunzion, se tal decreto più corto per buon prieghi non diventa. Vedi oggimai, se tu mi puoi far lieto, revelando alla mia buona costanza come mai visto, e anco esto divieto, che qui per quei di là molto s'avanza. Fine del terzo canto del Purgatorio.